Arresto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo in ristorante convento domenica sera, finalmente con due ragazze che non vedono l'ora di raccontare tutto di loro, vero ragazze? Però, vero? Sì, vero. Allora, partiamo con i nomi per quei pochi che non vi conoscono ancora. Laura. Com'è? Tutte e due? Sì. Ah, tutte e due Laura? Esattamente. Non è che siete d'accordo, mi dite le stesse cose? No. Laura. Esatto. Ok, quindi non si può domandare che scuola avete fatto e che state... giusto? Non possiamo? Ma come tra l'altro vuoi. Siamo in presenza del manager, esatto. Salutiamo il manager, come si chiama il manager? Ciao Adriano. Ciao Adriano. Che poverino, non gli avete dato né il microfono né le cuffie. Il manager deve solo guardare come vi comportate durante le vostre performance, giusto? Perché loro sono delle cantanti ormai famosissime, hanno fatto anche il saggio, avete fatto il saggio? Sì, ieri. Dove? Alla, si può dire il nome della certo, scuola? Certo, certo. Musicale Associazione Culturale di Castiglione delle Stiviere. E c'eravate tutte e due? Sì. Tutte e due, sì, più ma, altre persone. Ma come allieve? Come allieve? Come allieve, sì. Ah, perché avete siamo fatto... siamo conosciute lì. Ah, siete diventate amiche lì? Sì. Allora non vi conoscete da tanto? No, da un paio d'anni più o meno. Prendetevi la manina come prima? Cioè, fate vedere la manina un attimo. Grande. Cioè, sembravate amicissime prima quando avete cantato con la manina. Lo siamo, però. Da due anni. Siamo quindi conosciute già. Un'amicizia intensa. Sì. Ma che bello. Cioè, bello così, no? Cioè, tu vai in una scuola perché per... abbiamo molti hobby in comune. Sì. Molte passioni in comune, sì. Oltre questa, oltre il canto? Il canto, il ballo, la musica in genere. Perfetto. Lo shopping. Sfrenato proprio? Beh, insomma, no. Quando si può. Il manager è disperato, perché ho visto la faccia provata del manager perché vi accompagna durante lo shopping. No, non ancora. Lui lo conosciamo da molto poco. Ah, da molto poco? Io lo conosco da stasera. Ah, da stasera? Però ormai è assunto come manager. Sì, lo vedo già sconsolato, però io. È preoccupato, lo vedo. Sarà dura portarla in tournée per tutte le... dove andrete a cantare? Nelle piazze d'Italia? Ma chissà dove ci richiederanno. Forse. Sì, tra un paio di mesi forse. Ricordiamo il nome perché secondo me è il tuo nome d'arte, Laura Beschi, giusto? Si può dire? Ma a me suona. A te suona? È un po' comune. È un po' comune dalle nostre parti. Però io ti vedo buone prospettive su di te. Devo inventarmi un nome d'arte. Sì? Vuoi farlo qui sul momento? Ci devo pensare? No, ci devo pensare. Te lo dico la prossima volta. Nel frattempo l'altra Laura ha già pensato al nome d'arte, vero? No, perfetto. Ma ci penserà il nostro manager perché lui vi lancerà nell'universo della musica. Grazie manager. Ecco, così potete fare tutto lo shopping che volete. Ecco, visto, alla fine gira tutto lì. Esatto. Quindi avete fatto questo saggio e sì. Che canzone avete portato al saggio? Vai Laura. Per sempre della Nina Zilli. Ah. Il mare d'inverno della Bertè. Che storia. Allora io farei un piccolo assaggio del saggio per quei ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento e partirei dalla Lauretta. Ti posso chiamare Lauretta? Sì, mi chiamano tutti Lauretta. Allora dalla Lauretta, ecco. E poi mi fai un mix, cioè tu inizi, no? E poi la Laura mi entra in mixato io con la sua. Io però non so la sua canzone. Ah, ok. Una cosa a istinto, mi piace. Ti piace manager questa cosa? Ah? Proviamo. Proviamo, ce la facciamo? Ce la proviamo? Ok. Sei carica? Sì. Signori e signori, Lauretta. Se un giorno tu tornassi da me dicendo che è stato un errore lasciarsi andare lontano, lontano da te. Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV e verso l'interno. E basta perché mi sono emozionata. Sei emozionata, però il mix è venuto bene, vero? Sembrava organizzatissimo, invece è venuto proprio così spontaneo. Magari per la prossima volta facciamo i compiti a casa, okay. E ci mixiamo tutta una canzone fino alla fine, un pezzo tu, un pezzo te, okay. Però istintivo così, però due canzoni diverse. Va bene. Ti piace questa? Può andare, sono brave, eh. Io le ascolto tutte le domeniche in area YouTube. Sì, io le aspetto sempre con impazienza. Penso tutta la settimana quando arriva la domenica per ascoltarle. Immagino. Sì. Sicuramente. Signori e signori, se volete vederle dal vivo, venite al convento di Donato la domenica sera e in area YouTube ci sono loro protagoniste della nostra domenica. Ragazze? Ok, va bene. Grazie. Vi sentite protagoniste? Sì, ma perché no? Della nostra vita sicuramente. Sapete che abbiamo fatto 5 minuti per raccontare e raccontarsi senza domandarvi nulla praticamente. Sei stato bravissimo. Siete stati bravi, va bene, va bene. Va bene. Volete salutare il pubblico? Ciao a tutti. Diciamo sempre le stesse cose. Bellissimo, come tipo le bambine all'asilo. Non è stata preparata, assolutamente no. Così spontanea. Noi siamo così. Così spontanea. Ci vengono le stesse frasi. Ma che bello, ma che bello, ma che bello. Allora salutiamo il nostro manager che si chiama... Ciao Adriano. Ciao Adriano. Poi ciao da... Laura. E Lauretta. E da Sandrino. Ciao. Ciao. Ciao.